Ecco il dialogo. Al caffè Giubbe Rosse. Ah, ecco. Siamo al caffè Giubbe Rosse. È un locale molto famoso a Firenze. Really? It looks quite old. Sì. È antico. Che profumo di caffè. Prendiamo un espresso? Why not? Sì, un espresso per me. Io prendo anche una pasta. Ho fame. Are you eating pasta now? Sì, ma non pasta come primo piatto, spaghetti o penne. What then? Ecco, quella è una pasta. Pasta can be a misleading word. Literally, it means dough. That's why it's used to refer to spaghetti, penne, and so on. And also to pastries. Normally, if you say la pasta, you mean the first course, pasta in the English sense. And if you say una pasta, you mean a pastry.